il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Colline di Conegliano e Valdobbiadene come patrimonio UNESCO. Se ne parla dal 2008, anno in cui era stato avviato il progetto per questo riconoscimento. La scorsa settimana il presidente regionale Luca Zaia, presenti i sindaci e le categorie economiche, ha rilanciato questa ipotesi e ha presentato anche il nuovo logo delle colline del Prosecco che si dovrebbe trovare in futuro su ogni bottiglia. Perché questa candidatura? Perché si tratta di un vero e proprio paesaggio culturale dove l'opera dei viticoltori ha contribuito nel tempo a creare uno scenario unico. Allo stesso tempo però non è mancata qualche polemica, in particolar modo sull'uso dei prodotti chimici. Qualche associazione ambientalista, qualche comitato di cittadini da tempo in realtà chiede un intervento per limitare questo inquinamento e la candidatura UNESCO potrebbe essere l'occasione per riflettere maggiormente su questo tema. Noi cerchiamo di farlo oggi intervistando un viticoltore dell'area di Valdobbiadene, Silvano Follador, che ha fatto la scelta di ridurre l'impatto dei propri vigneti sul territorio. I trattamenti necessari per avere il Prosecco come lo conosciamo oggi sono veramente così impattanti? E qual è il reale problema e cosa si potrebbe fare per diminuirli? Viviamo qui a Valdobbiadene in una realtà produttiva che ha comunque delle difficoltà in annate particolarmente difficili per portare, diciamo, in cantina il raccolto. Ci troviamo tra l'altro di fronte anche ad una varietà, il Prosecco o Glera, che è particolarmente sensibile a determinate crittogamme, a determinati funghi, in particolar modo la peronospora, che è il fungo, diciamo, più pericoloso, soprattutto quando piove tanto, e qui a Valdobbiadene in primavera quando piove, piove davvero molto. Il biologico o il biodinamico permette l'utilizzo esclusivamente del rame, ma il rame sopra certi dosaggi diventa tossico per il terreno. Il rame è un antimicrobico, quindi se ne utilizzo troppo è un metallo pesante, le concentrazioni nella terra e nel terreno aumentano e mi distruggono i microorganismi. Quindi diventa quasi deleterio utilizzare troppo rame, è meglio utilizzare prodotti di sintesi chimica in alcune particolari situazioni. Esattamente. Rispettare l'ambiente non vuol dire trattare esclusivamente con rame, lo si può fare anche utilizzando in maniera ragionata qualche molecola chimica proprio nei momenti di difficoltà. Proprio per il fatto che ci troviamo in una realtà particolarmente come dire sensibile alla peronospora, anche la linea naturale deve, per necessità ma anche proprio nell'ottica di rispettare la fertilità della terra e del suolo, deve in certi momenti, come dire, vivere una sorta di compromesso. Perché secondo te, visto che è possibile avere un tipo di agricoltura diversa, non molti lo fanno? Cioè sono pochi che hanno fatto la scelta del biologico nelle terre del Prosecco o che comunque hanno una sensibilità, anche se non sono magari certificati biologici, come quella che tu stai dicendo. Sì, bisognerebbe conoscere bene un po' la sensibilità e la psicologia un po' di tutti gli agricoltori, ma da quello che mi sembra un po' di intuire, si è creato un po' nell'area un sistema dove da una parte troviamo delle aziende grosse che sono trasformatori d'uva, quindi aziende spumantistiche, che quindi lavorano l'uva e lavorano il vino, e dall'altra parte la maggioranza poi è con una grande quantità di agricoltori che coltiva la terra, produce l'uva, ma poi alla fine la vende alle grandi aziende.

Ci chiedevamo però questo, una viticoltura come è stata definita nella prima parte di questa trasmissione richiede anche forse un maggiore dispendio economico che quindi avrebbe anche una ricaduta sul prezzo del prosecco che sappiamo essersi affermato nel mondo anche per il proprio prezzo che è molto inferiore per esempio a quello di uno champagne. Il prosecco probabilmente ha conquistato come dire, la stima dei consumatori mondiali, probabilmente per la sua piacevolezza, ma come dire, è cresciuto nei numeri anche perché sono bottiglie che si trovano comunque a prezzi ragionevoli. Posso dirti che seguire comunque una linea rispettosa dell'ambiente ti porta a comunque ridurre le tue rese, quindi hai quantitativi d'uva minori e i prodotti che molto spesso si cerca di utilizzare anche per abbattere proprio i quantitativi di rame e o per limitare anche l'aiuto di certi prodotti chimici sono degli induttori di resistenza, principalmente a base di alghe o di estratti di lievito, che devo dire costano molto. Quindi posso veramente dire che trattamenti fatti in annate particolarmente impegnative nella logica, chiamiamola biologica, costano di più che non trattamenti fatti in convenzionale. Molto spesso poi anche sistemi di lavoro nel vigneto che vengono fatti a mano chiaramente ti portano a ad avere comunque anche un impegno di ore maggiori che non fare certi lavori a macchina, quindi comunque alla fine una bottiglia che esce nel mercato sotto questa logica naturale ha dei costi maggiori, indubbiamente. Chiudiamo tornando al tema iniziale, quello della questa idea di candidatura all'UNESCO, è veramente solo il problema dei trattamenti quello che potrebbe così far pensare che non sia un luogo adatto o ci sono altre o altre questioni? Tu come la pensi? Sei favorevole a questa candidatura? Allora, direi che il territorio ha comunque un alto valore paesaggistico ed ambientale. Probabilmente 100 anni fa avrebbe avuto più le carte in regola per questa candidatura. L'uomo in questi anni, se da una parte ha intensificato la coltivazione della vite e possiamo dargli altro che merito, dall'altra parte però devo dire che quel bello naturale che come dicevo 100 anni fa probabilmente era ancora vergine e rispettato e intatto, ora mostra comunque alcuni limiti. Faccio piccoli esempi, ci sono pali della luce che vengono utilizzati come testate nei filari, si vedono baracche di lamiera utilizzate come ricovero di attrezzi, a volte piccoli torrentelli che ricordo raccontare da mio padre e da mio nonno avevano la presenza di gamberi, questi gamberi venivano pescati, hanno completamente perso tutta la loro ricchezza faunistica proprio perché vengono inquinati da scarichi probabilmente di cantine e altre abitazioni. Quindi devo dire che la presenza, come dire, dell'uomo in questi anni ha rovinato proprio quella bellezza che 100 anni fa probabilmente era ancora intatta. Quindi direi avrebbe tutte le carte in regola per diventare patrimonio dell'umanità, ma bisognerebbe, come dire, risanarlo. Quindi è possibile, ma bisognerebbe, come dire, fare un lavoro proprio di pulizia che potrebbe portare a un ambiente sicuramente migliore. Quindi sia la candidatura, però anche prendersi degli impegni per valorizzarlo meglio e per farlo crescere. Certo.